Prima che finisca questa sigaretta, tu mi dirai di sì, oppure forse no. Puoi pensarci bene, non avere fretta, c'è tanto tempo ancora, il tempo di una sigaretta. Guardo pigramente le spire profumate, lo vedi, fumo a piccole boccate. Vorrei fermare un poco questa punta di fuoco, vorrei fermare il tempo, ma tempo passa e va. Questa sigaretta, tu mi dirai di sì o mi dirai di no. Passano i minuti, forse troppo in fretta. Io guardo gli occhi tuoi fumando questa sigaretta. Ah, devi dire sì, invece hai detto no. Muore un dolce sogno, nato troppo in fretta. Io me ne vado, amore, e spengo. Questa